ascoltati veramente con l'inizio col botto, questi Tabash, inizio col botto appunto per quanto riguarda Timeless Record, ricordiamo fondata da Alberto Randi, Giovanni Ricchi e Francesco Tabanelli, tra l'altro Tabanelli già dentro in Problem With My Mind, quindi è una sorta di esasperazione già dentro il progetto precedente, una specie di elettropunk portato insomma appunto all'esasperazione, e con questo nuovo progetto dentro Timeless Record come prima uscita si va verso quella accelerazione senz'altro connaturata dentro la techno, tutta la techno, quella insomma con forti spinte utopiche, distopiche, insomma barra si potrebbe unire la faccenda, e quel senso noise che appunto è noise, beh, comunque ha un'idea e ha un suono anche che rimanda a certe correnti, a certe corrieri anzi cosmici, per forse definire meglio forse certe coordinate appunto spaziali, e poi queste casserotte che diventano nuove ritmiche, inventano forme appunto di tecnologie che, se vogliamo, devastate per quanto riguarda appunto la latitudine punk noise, così molto molto in generale, che però appunto in questo caso connaturandole o attaccandole in una certa qual misura alle materie appunto cosmicheggianti, diventano musiche con assoluta forza così espansiva, potremmo dire, una sorta di dilatazione. In questo senso c'è un forte elemento utopico, e forse anche appunto un disegno escapico dentro le techno di questo Tabash, di questo progetto che abbiamo voluto inserire dentro Futuri Rumori questa sera. E continuando e accelerando la faccenda di 451 frammenti sonori, neutralizzando ancora più il suono portando in una sorta di landa forse nuova per molti aspetti, quella di Logos, Cold Mission, anche qua faccende che si fanno inquietanti, proprio perché forse perdonatemi tanti forse, ma sono dei forse propositivi rispetto a quello che può essere, appunto, a quello che c'è potenzialmente come sviluppo dentro queste musiche, e anche dentro, ci mancherebbe, insomma, Futuri Rumori, appunto, con Tabash, li mettiamo appunto apposta, li chiamiamo Futuri Rumori proprio per questa ragione, e con quindi tutto questo senso di inquietudine legato a questa missione fredda di Logos, con appunto un'accelerazione che appunto sembra quasi portarci in un altrove, forse appunto il futuro, che non è un luogo particolarmente ospitale, o forse questo è un altro modo per neutralizzare, per rendere forse in questo caso c'è forse l'utopia dell'azzeramento, quindi anche del linguaggio, di arrivare a una sorta di grado zero appunto delle musicalità, in questo caso delle tecnologie e delle musiche collegate a queste. Logos appunto con Cold Mission, missione veramente molto fredda.

Un sogno, un incubo, non si capisce bene cosa sia, e forse vuole essere tale, come tante musiche inquietanti, appunto, che si cibano comunque di immaginari futuribili o futuristici, ecco, e quello di Logos, di Cold Mission. Tra l'altro, volevo già dirlo in discorso legato molto a una delle penne migliori che ci sono in giro ora in Italia, ovvero Valerio Mattioli, molte delle cose che sto mettendo sia dentro Vaporwave che dentro questa sera di 451 Accelerazioni provengono poi da una discografia accelerazionista, appunto un bell'articolo dove tira fuori appunto anche il manifesto appunto accelerazionista proprio Valerio Mattioli, lo trovate su Prismo, e quindi cercandolo su internet troverete questo bell'articolo dove si interfaccia appunto con quelle che potrebbero essere delle dimensioni. Qua la faccenda è aperta, dimensioni non soltanto nuove, ma appunto con quell'accelerazione futuristica che magari appunto si può intravedere come attitudine. Forse si può anche proprio sentire in certi passaggi, come dire, un ambient che non è più tale, un dubstep che si è anch'esso forse vaporizzato con ritmicità che hanno quasi degli spasmi schizofrenici. O perse dentro forse delle accelerazioni che le portano a non essere più ritmiche, e forse questo è memore anche degli storici sì, progetti sperimentali compiuti da Carlisle Stockhausen, ad esempio, sull'accelerazione appunto delle ritmiche che creano appunto delle ambientazioni e non danno più appunto quella battuta e quindi quel senso ritmico. E poi ci sono senz'altro quei riferimenti appunto tecnoidi che vanno tanto dalle utopie post-cosmiche a quel momenti di fuoriuscita di certa New Age primordiale, primigenia, o forse la reinvenzione anche di questa. E quindi in questo senso andiamo a trattare di cose che si fanno scottanti sempre più con il passare del tempo, sempre più contraddittorie anche rispetto a quello che potrebbe essere uno sviluppo o semplicemente forse un inviluppo, scusate insomma il bisticcio di parole, nel senso di chiudersi poi in se stesso. In effetti la faccenda è come spesso sto sottolineando in queste due trasmissioni, sia quella dedicata alla Vaporwave che questa qua dedicata all'accelerazione in generale, e è paradossale, è un discorso che potrebbe chiudersi appunto in una sorta di tattica, strategia che non porta nient'altro che appunto status quo, anzi implementando lo stesso potere costituito, e quindi quello che adesso appunto il capitalismo, e invece quello che potrebbe essere appunto una specie di cortocircuitazione, cortocircuito, meglio dirlo così, della faccenda appunto sistemica, utilizzando proprio gli stessi linguaggi, come spesso sto ripetendo, gli stessi suoni e forse anche degli atteggiamenti che sembrerebbero non portare null'altro che appunto conferme rispetto appunto a questo presente eterno. Così dentro queste faccende, senz'altro uno dei dischi importanti che possiamo trovare dentro questa accelerazione, anche egli assolutamente non rivendica nessun accelerazionismo, però di fatto questo progetto eccezionale di Jarmoff, greco di Atene, che si muove su un settore senz'altro squisitamente sperimentale tra materia, noise, drone e appunto questa idea di lavorare su delle dilatazioni sonore che però appunto hanno forme accelerate quindi di sintesi anche piuttosto violenta sul linguaggio, su quello che appunto è una dialettica del suono sperimentale che va a esplorare appunto Jarmoff. Finanzia al glam, già insomma un greco che nel 2013 chiama così un disco, forse rende anche la faccenda così, con questo risvolto tra l'inquietante, ma anche appunto tra una possibilità non decostruzione del linguaggio, ma appunto accelerazione di questo. La finanza sì, diventa glam, ma il glam è anche appunto il trattamento non soltanto nominale che fa Jarmoff su materiali appunto che potrebbero essere muzak a tutti gli effetti, ma dentro queste appunto questa dialettica, questa soprattutto sintesi che riesce a compiere con questi suoni che sembrerebbero chiusi in loro stessi, in realtà non lo sono affatto, e quindi anche qua diventa faccenda che accelera perlomeno la dimensione sonora. Financial Glam, appunto, per chiudere, ma un cerco che ovviamente non si chiude qua e non vogliamo neanche chiudere, questa forse è una delle prime accelerazioni di 451 frammenti sonori. Io vi rimando, appunto il pezzo è piuttosto lungo e una sorta di arzigogolo accelerazionista, vi rimando non a mercoledì prossimo ma a quello ancora dopo per futuri rumori, che tra l'altro sottolineo, mandateci materiale, file, cassette, vinili, tutto quello che volete, anche in fiale, come amo dire ultimamente, basta insomma che ci mandiate appunto materiali. Ovviamente più o meno conoscete la faccenda di 451, quindi sapete che da queste parti amiamo ardire, quindi andare verso lavori sperimentali. Un saluto da Max Macchia, appunto al prossimo, un rimando al prossimo 451 frammenti sonori, prossimo 451 intersezioni, ovviamente al blog curato da Lorenzo Albano, 451 frammentisonori.noblogs.org, e Jarmoff in questo tuffo dentro il glam finanziario, quello probabilmente mortificante e forse chissà definitivo, ma nel senso che appunto morente in quanto tale. Magari Jarmoff se lo augura, eppure noi da queste parti. Ciao.